si rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete. Nelle nozze farete quando volete. Oggi e doppie saranno. Prendi queste biglietto delle nacche a me devi e tua do. Prendi ancora questa borsa. E questa ancora. Bravi, gittate pur che io pigli ognora. Vogliamo rifamare